sì, amici, gli inizi del podcasting vanno a rilento. Chi segue Listen Pen, la penna che ascolta, avrà notato che c'è più scritto che parlato. La ragione? Semplice, fare un podcasting senza spendere non è facile. Questa registrazione, perché voi la possiate ascoltare, deve essere convertita in un MP3. Questo MP3 deve essere depositato in una banca dati che lo ospiti, gratuitamente ovviamente. Nel mio caso un sito USA, che a sua volta lo mette in un altro sito che fa da archivio. Stabilito il link, quando voi cliccate, a seconda del traffico in rete, da tutti i parametri tecnici che più o meno conoscete, voi lo scaricate più o meno in fretta e lo ascoltate. Ma ci scoraggiamo? Non sia, se cresce il vostro interesse spenderemo anche dei soldi, quindi avanti col podcast!